Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mio padre non aveva l'Alzheimer. Guidava la sua macchina, cucinava, si curava in parte delle faccende domestiche ed era completamente autonomo. Eppure stava lì, con quell'aria un po' assente, come se quello che ci stava spiegando l'infermiera fosse cosa che non lo riguardava. Signor Zenere, ha capito cosa deve fare con suo papà? L'infermiera si rivolgeva a me. No, risposi, e dovetti farmi ripetere tutto. Ciao, mi chiamo Renato, sono della provincia di Vicenza, sono sposato e ho due figli. Io avevo perso questo passaggio per cui ci abbiamo un concessionario. È un concessionario che ci... Da quando ci abbiamo un concessionario? Da questa settimana, dice Filippo. Ma ad esempio in questi casi si può chiedere un'automobile? Tipo, no. Magari solo per questa settimana. Facciamo così, solo per una settimana. Ma perché Tiziano viene sempre con la 90 e mi si perde sulla 90, c'ha gli incidenti sulla 90, le risse sulla 90. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:08 minuti, continua a diluviare, manco fossimo ai tropici durante i monsoni. È un monsone che dura ormai da quasi 3 mesi su Milano e sul nord Italia, dal sud e il centro non lo so, però qui la situazione è grosso modo quella lì. Oggi però parliamo d'altro, come al solito, non parliamo mai del... Non abbiamo mai fatto una puntata sul meteo. No, mai. Una volta c'era uno che raccontava di aver costruito una centrale meteorologica sulla propria azienda, ma non era un racconto. No, era una telefonata, non c'entra niente. Era una telefonata, credo, per Io sono qui o addirittura Vendo tutto. Non è ancora arrivato un racconto sul meteo. Io vi dico, ci avete ancora 1 mese e mezzo di tempo. Puntate sul meteo, sempre ben accette. Non so cosa si possa dire sul meteo, però quello che in assoluto è l'argomento di maggiore uso per uso e consumo, direi, per rompere il ghiaccio. Piove ancora, ma da domani è danno bello. Ecco, quell'argomento lì non è ancora stato toccato. Vedete voi. Oggi si parla d'altro, dicevo. Oggi si parla della storia di Renato. La storia di Renato è una storia che credo sia abbastanza comune, soprattutto per le persone della sua generazione, che credo avere tra i 40 e i 50 anni, che si trova a un certo punto a vivere con il babbo, che è stato sempre autonomo e a un certo punto non lo è più. E lui, quando capisce, e lo capisce proprio in quel momento che vi ho letto poco fa, quando l'infermiera sta dicendo delle cose a suo papà, ma le sta dicendo a lui, perché suo padre è totalmente disinteressato, in quel momento lì capisce che c'è stata un'inversione dei ruoli, cioè si sono proprio ribaltati. Op, lui era figlio ed è diventato padre, e il padre, che era il padre, è diventato figlio. Oggi parliamo di questo, lo facciamo in maniera un po' più larga che non rimanendo riguardo ai rapporti familiari. Se vi è mai capitato nella vostra vita di trovarvi dalla parte opposta rispetto alla quale vi trovavate qualche tempo prima, anni prima, mesi prima, una vita prima, cioè se eravate datori di lavoro, avevate un dipendente e dopo un po' vi siete trovati con quel dipendente che era vostro datore di lavoro e voi che eravate diventati dipendenti, ma vale anche con allievi maestri, maestri allievi. A me ad esempio è capitata una roba del genere, ve la racconto più tardi. Chiaramente si parla di contesti diversi, non è che se siete stati allievi di un docente universitario dovete diventare docenti universitari del vostro ex docente, ma magari siete diventati maestri o istruttori di qualcosa e lui era seduto dall'altra parte della cattedra o comunque stava ad ascoltare voi. 349-238-6666. È arrivato un messaggio sul profilo Facebook che è perfetto, eccolo qua, Riccardo. Quando andavo a scuola avevo un insegnante che non credeva molto in me e che diceva in continuazione che non avrei fatto molta strada. 3 anni fa questa insegnante si è iscritta a un corso di informatica e indovinate un po' chi era l'insegnante del corso. Quando l'ho vista, l'ho salutata e le ho detto: queste sì che sono soddisfazioni. 349-238-6666, il profilo Facebook, voi siete qui Radio 24, il profilo Twitter, voi siete qui R24. Stiamo alla storia di Renato e di suo papà. Eccola qua. Mi ero da poco sposato. Nella casa dove abito, sotto il mio appartamento, viveva il mio papà. La mamma era mancata già da qualche anno. Io ero quasi un trentenne e lui, papà, aveva passato da un po' i 70. Qualche anno prima gli era stata diagnosticata una leucemia linfatica cronica, malattia che gli ha comunque lasciato vivere una vita dignitosa fino a 82 anni compiuti. E fin qui sembra tutto molto triste, ma non è così, perché sono percorsi di vita comuni a molta gente. ed essendo io ultimo di sei fratelli, è abbastanza normale che mi sia trovato da giovane senza la mamma e con un papà avanti con gli anni. Per i primi tempi ci ho badato io essenzialmente da solo. Poi, diciamo, man mano che è passato il tempo, è nato l'ultimo dei miei figli, ho avuto sempre meno tempo, il papà si era anche un po' aggravato, diciamo, e quindi ci ho fatto aiutare mia sorella e i miei fratelli, insomma. Venne il giorno del primo ricovero in ospedale per colpa della leucemia e da lì a un paio di settimane andai a prendere mio padre perché doveva essere dimesso. L'infermiera mi chiama e mi fa entrare in uno stanzino dove c'erano alcuni tavolini rettangolari. E su uno di questi, al lato più corto, c'era già Gelindo, mio papà, seduto ad aspettarmi. Mi fece sedere di fronte a lei e si sedette. E nel frattempo venne servito il vassoio del pranzo che mio padre, incurante di tutto, si mise a controllare e a sbocconcellare. L'infermiera teneva in mano un foglio e sul tavolino aveva appoggiato una manciata di scatole dai nomi più astrusi e mi disse: «Ascolti, signor Zenere, questa è la lista dei medicinali per Gelindo. Qui ce ne sono alcuni, per gli altri dovrà farsi fare la ricetta». Mentre mi elencava tutte le dosi, gli orari e i metodi di somministrazione delle pillole, girai gli occhi su mio padre e mi accorsi che era completamente disinteressato a ciò che avrebbe dovuto essere avrebbe dovuto fare una volta rientrato a casa. Stava mangiando come se fosse al ristorante. Lo sguardo era spesso rivolto verso l'alto, come a volere contemplare il gusto che i bocconi stava masticando. Gelindo non aveva l'Alzheimer, guidava la sua macchina, cucinava, si curava in parte delle faccende domestiche ed era completamente autonomo. Eppure stava lì, con quell'aria un po' assente, come se quello che ci stava spiegando l'infermiera fosse cosa che non lo riguardava. «Signor Zenere, ha capito cosa deve fare con suo papà?» E l'infermiera si rivolgeva a me. «No», risposi, e dovetti farmi ripetere tutto. Era già successo probabilmente, nel senso che era già un bel po' che probabilmente mi occupavo di mio papà. E mi ha un po' aperto gli occhi quella cosa lì, nel senso che ho visto che si era praticamente disinteressato di se stesso, quindi ho capito, ho realizzato che c'ero io, insomma, che lo dovevo seguire, ecco, tutto qua. Usciti dalla struttura, mentre attraversavamo il giardino che sta di fronte all'ospedale, lui mi parlava, ma non ricordo le sue parole. Ero distratto da una giornata primaverile, con aria fresca e un bel sole, con il pensiero fisso a quell'atteggiamento assente, quasi spensierato, di totale disinteresse, che mi aveva completamente spiazzato. C'è un detto popolare che sentivo pronunciare spesso da mia mamma e recita così: «A sie anni se putei e a 60 se ancora quei», che tradotto dal dialetto suona così: a 6 anni si è bambini e a 60 si torna a essere quelli. Era evidente che a Gelindo non andava più di occuparsi di me e soprattutto neanche di se stesso. Era come se ci fossimo scambiati i ruoli, diventare il padre di proprio padre. In quel momento sono diventato adulto. Someone to turn his thoughts to. Nothing to lose. Too scared to try. L'altra sera ho ascoltato la presentazione del libro di Andrés Neumann che si chiama Parlare da soli. Parlare da soli è la storia della malattia di un padre e del figlio che se ne prende cura. E c'entra un po' con la storia di Andrés stesso, che ha parlato della vicenda di sua madre, che è mancata per una leucemia. Tra le tante cose che ha detto, ce n'è una che mi ha ricordato Renato. E cioè, l'infanzia finisce quando ti occupi dei tuoi genitori. A molti succede di doversi sacrificare per anni dietro alle difficoltà fisiche delle generazioni precedenti che invecchiano e si ammalano, ma rimangono tra noi per molto tempo, senza poter vivere in completa autonomia. È uno stato doloroso, ma è anche una grande prova di crescita. E non capita solo con i propri genitori di invertire i ruoli. Sono molti i casi in cui chi prima stava sopra, diciamo, poi sta sotto, e chi prima insegnava ora impara, o chi prima dirigeva ora è diretto. Magari non nello stesso campo, cioè non è che capiti spesso che un imprenditore abbia nel personale qualcuno che poi diventerà il suo capo, Però ci sono diversi campi di gioco nella vita in cui ci si incontra e si invertono questi ruoli. Tipo quelli del Fight Club, che di giorno fanno i mestieri più diversi e sono delle classi sociali più distanti, ma quando la sera si ritrovano per sfidarsi prendendosi a pugni, sono tutti pari. Ecco, a me è capitata una cosa del genere, cioè, non come nel Fight Club, abbastanza diversa. La storia è questa qua. Lui era un mio professore in università e me lo sono ritrovato tra gli allievi durante un mio corso di vela. Non lo sapevo e appena ce ne siamo accorti c'è stato un po' di imbarazzo. Lui era in mezzo a un gruppo di ragazzi e voleva sapere come andare per mare da me. Esattamente come capitava a me in classe quando lui faceva lezione. E lo sapevo che lui voleva solo imparare, solo che ero comunque un po' in difficoltà. Innanzitutto per la storia del tu, perché in barca e lì a Caprera in quel posto ci si dà subito del tu, è una regola, si fa così. E lui era abituato a chiamarlo professore e ci ho messo un bel giorno intero a smettere di dargli del lei e a chiamarlo per nome. Poi, finché si fa teoria, c'è solo da parlarsi e da spiegarsi, ma quando si è in acqua, anche se non si è in mare aperto, non è che si può proprio scherzare troppo, perché comunque c'è un margine di rischio nelle cose che si fanno. Quindi le manovre vanno eseguite bene e di errori bisogna farne il meno possibile, soprattutto se c'è onda e se c'è vento. E in quei giorni c'era un bel maestrale. Nell'eseguire manovre bisogna essere decisi e il prof, diciamocela tutta, non lo era moltissimo. Allora un paio di volte ho dovuto ripetergli i comandi a voce molto alta, ma sempre ricordandomi chi era. Insomma, non mi sono proprio lasciato andare. E forse è per questo che lui non ha imparato quasi niente. Perché io non gli ho insegnato bene. E allora, quando poi l'ho messo su una deriva come gli altri e gli ho fatto fare un po' di manovre, io lo guardavo da riva e mi ripetevo che non poteva scoffiare perché il vento era calato e il mare era piatto. E poi lui sapeva cosa fare. A teoria l'aveva imparata. E mentre pensavo queste cose, lo vedo girarsi come una trottola e finire in acqua senza un suono. Allora mi ricordo ovviamente che ha il giubbottino salvagente, che però non è un anfibio, anzi, che lui è uno di montagna, quindi il mare gli fa anche un po' paura. E dopo 5 minuti in cui vedo che prova a girare la barca sempre senza dire una parola, a un certo punto lo sento chiamare aiuto, ma a voce bassa, forse un po' vergognandosi. A quel punto mi tolgo la felpa, salgo sulla barchina e vado a prendere quell'impedito che tutti lo venerano, come quando è in aula ma non sa nemmeno far star dritto una barca senza vento e senza onda. E mentre lo rimorchio a terra mi accorgo che lui è deluso da se stesso e allora gli dico che nessuno nasce sapendo le cose, che le prime volte io ero molto peggio di lui e che comunque è stato bravo a rimanere calmo. Però poi mi lascio scappare che forse il suo posto è dietro una cattedra e un po' mi è spiaciuto, ma un po' era anche vero. Cast on the old Santa Claus, being in the club, it's not me you're deceiving. We all do what we have to do at this time of the season. Il mio ex preside, che tanto mi aveva svilito, prende appunti da una mia lezione di pedagogia, Giulia. E queste, come diceva l'ascoltatore prima su Facebook, sono effettivamente soddisfazioni. Sono soddisfazioni in generale, non so da quale parte arrivino e perché siano così soddisfacenti, però quando tu hai fatto una cosa per qualcuno e poi il ruolo si inverte e ti trovi che lui sta facendo quella cosa per te, tipo appunto insegnare, prendere appunti e insegnare, insomma quando tu ti trovi a fare la cosa che lui faceva e lui a fare la cosa che facevi tu e ci sono dei gradini insomma che ti separano, c'è una certa soddisfazione. Fabrizio: anni fa facevo il progettista e avevo un capo, oggi tengo corsi di leadership e lo scorso anno me lo ritrovai in aula come partecipante. 349-238-6666 per mandare un sms per raccontare di quando vi si è invertito un ruolo con la stessa persona, eh? Cioè quando facevate una cosa insegnavate e quello faceva l'allievo e poi il contrario, quello insegnava e voi facevate l'allievo. Anche sul profilo Facebook o su Twitter del programma. Renato ci ha scritto una storia che ha a che fare con l'inversione di ruoli, è lui stesso a dirlo nella parte finale del racconto, mi pare. Eccolo qua, era come se ci fossimo scambiati ruoli, diventare il padre di proprio padre. In quel momento sono diventato adulto. Pronto Renato? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Sono a casa adesso. Non lavori alle 16:24 di un giovedì pomeriggio? No, ho già lavorato abbastanza questa mattina. Che cosa fai? Di cosa ti occupi, se si può, cioè a grandi linee, insomma, se non lavori per la CIA? Io sono un... si chiama autista raccoglitore, in realtà è le turbine sostanzialmente. Ah, ok, beh, fai quello, fai autista raccoglitore, cioè nel senso che guidi? Guido e raccolgo. Ok, dov'è che abiti? Io abito in un paesino qui in provincia di Vicenza, molto piccolo, una frazione. Quando è successa la cosa che ci hai raccontato nella tua storia? Sono passati un bel po' d'anni, almeno una decina, insomma. E tuo papà è mancato quanti anni fa? Nel 2008. E perché, Renato, quando hai deciso... Tu com'è che hai deciso di mandarci la storia? Ascoltavi il programma e hai detto, mi metto lì, la scrivo, oppure ce l'avevi già pronta? Cioè, come ti è venuto? No, io quando posso ti ascolto. Il programma mi piace, non so il motivo, ma un giorno mi è venuto in mente di scriverla. Una domenica mattina era. L'ho scritta e l'ho mandata. Quanto ci hai messo a scriverla? Penso, non lo so, qualche ora il mattino, domenica mattina. E per quale motivo? Guarda, è una cosa che non chiedo spesso, però per quale motivo tra tutte... Quanti anni hai tu, Renato, scusami? 40. Ah, hai 40 anni. Hai la voce più anziana, ma praticamente c'hai la mia età. Sembravi... hai la voce di un omone, invece... No. Invece sei un ragazzo, come si dice, certo. Quando hai 30 anni dici che i trentenni sono ragazzi, quando hai 40, i quarantenni sono ragazzi. Sì, siamo ancora ragazzi. Esatto, certo, come no, siamo a voglia ancora, crescere, sì, figurati. Ti dicevo, insomma, tu hai dei figli, mi è sembrato di vedere dalla foto anche. E qui, insomma, c'è una vita, c'è una compagna, una moglie, non so qual è. Sì, però hai scelto esattamente questo episodio per raccontare qualcosa di te. Mi sai spiegare perché o chiamiamo uno psicologo? Nel senso che è una domanda, un po' la domanda delle domande questa, mi rendo conto. No, non te lo so spiegare, perché è una cosa che ogni tanto raccontavo anche a mia moglie, questa cosa mi ha molto colpito, la faccia che ha fatto il papà, è una cosa che mi è rimasta impressa, ecco, quindi non lo so. Questa forma di smarrimento che lui aveva mentre stava mangiando serenamente, sì. E lei ti spiegava, cioè, è cominciata lì e poi ce l'ha avuta per tutto il resto del tempo, oppure è stato andava no, a momento? Probabilmente me ne sono accorto io in quel momento, nel senso che era già un po' così di sicuro anche prima. Mi ha un po' aperto gli occhi, sono quelle cose che ti fanno un po' aprire gli occhi. Guarda, tra l'altro è arrivato un sms, non so se è di un analista o di uno psicologo, che dice: ognuno di noi racconta le svolte importanti della sua vita. Probabilmente ha colto una piccola parte, non solo della tua storia, ma di tutte le storie che arrivano. Renato, se facciamo il nostro live finale a Milano, ce la fai a venire con la tua famiglia? Insomma, prendi la macchina, parti alle 5 del pomeriggio, alle 6, arrivi qui. Di solito cominciamo sempre 9:30. Devo ancora dire la data, ma soprattutto c'è la possibilità che quest'anno sia all'aperto. Attenzione, diamo addirittura delle cose, delle notizie, sai che interesse. Ce la fai? Io a Milano ci vengo ogni tanto e dico sempre che devo portare anche i bambini, sarà l'occasione buona per farlo. E allora dai, rimani lì, non adesso intendo dire, rimani ad ascoltarci che prima o poi diamo la data, la stiamo quasi chiudendo. Renato, grazie ancora per la tua storia, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao, grazie. Quando stavo divorziando, mia figlia mi ha guidato e consigliato come se fosse lei la mamma. Ciao Giulia, parliamo di inversioni di ruoli con la stessa persona. Voi siete qui. È scattata durante una gita la fotografia che ci manda Renato, lo si capisce da un po' di dettagli. La prima è che tutta la famiglia è vestita da gita. Cioè lui, la moglie e i due bambini hanno quei piccoli particolari che noti, se sei lì li noti subito, lo capisci subito quando le persone sono in gita, quando invece stanno lavorando o sono a casa loro. Dalla foto lo vedi, ad esempio, dal giubbottino a mezze maniche, che è una cosa che uno non è che metta particolarmente, di quelle cose che magari tieni, che se viene un po' di freddo siamo via, lo mettiamo su, e lo si nota soprattutto dal borsello che porta con sé solo Renato e Filippo Aureggi in rare occasioni, il suo bel borsello con cui arriva sempre qui in radio. Secondo me sono a Firenze in questa fotografia, sono appoggiati a un pozzo di quelli chiusi e dietro c'è, credo, un ristorante, un bar che si chiama Palazzo del Giglio, quindi se non sono a Firenze sono in Toscana. Adesso la butto lì, qualcuno mi scrive, sì, siamo a Cremona, capace. Papà, mamma e due figli piccoli, tutti biondi, No, non tutti biondi. Tutti biondi tranne la mamma. Anzi, direi solo i bambini biondi. Renato e la mamma, per niente. Inversione, sostantivo femminile. Assunzione o conferimento della direzione opposta. Passaggio da una condizione o qualità sostanziale alla condizione o qualità opposta. Rovesciamento, in senso proprio e figurato. Etimo, dal latino inversio, inversionis, derivato di inversus, inverso. Data, secolo XVI. Il bello di queste definizioni è che quasi tutti, vabbè, qualsiasi parola arriva o dal greco o dal latino in sostanza, però di qualsiasi cosa puoi dire one onis alla fine, tipo che so io, microfono, dal latino microfono, microfonis, o aureggi, aureggos, aureggis, per dire la prima roba che viene in mente, Filippo. Ho insegnato a mia figlia di 11 anni a usare il PC, sin da quando era piccola. L'altro giorno mi ha insegnato ad usare un'app per l'iPhone. Lorenzo, mia madre Clara, questa è una storia molto simile alla storia di Renato, mia madre Clara in pochi mesi non mi riconosceva più per via dell'Alzheimer. Ruolo invertito e drammatico. Ciao Paolo. E poi il titolare dell'azienda per la quale ho lavorato dal 95 al 2003, quindi per un bel 8 anni, come venditore, adesso è venditore della mia azienda. La ruota gira, bisogna ricordarselo. Qua me lo vedo anche fa il gesto del dito e anche il tono. Ragazzi, la ruota gira, occhio perché gira. E poi, perfetto, grazie mille, arriva l'indicazione del fatto che la foto che vi ho appena raccontato, come se fosse a Firenze, era a Venezia. Ce l'ha scritto Renato. Ero cittadina impegnata in alcuni argomenti urbanistici della città, scrive Ilaria da Bassano del Grappa. A febbraio partecipai al consiglio comunale per sostenere la causa e ne uscii sconfortata per l'esito della votazione a cui assistetti. A maggio la campagna elettorale, a giugno ero consigliera comunale. Il giorno che con il mio voto ribaltai la decisione di quel febbraio, mi resi conto del salto di ruolo che non pensavo si sarebbe potuto avverare. Ilaria da Bassano del Grappa. Questa in realtà, Ilaria, è un'inversione di ruoli all'ennesima potenza, cioè su te stessa. Sei stata prima la spettatrice impotente di qualcosa che accadeva, poi sei diventata tu attrice fondamentale, hai ribaltato. Questo SMS è una sorta di monito per tutti quelli che dicono: ah, tanto non si può fare niente, tanto è sempre uguale, tanto finisce sempre così. 349-238-6666. Parlando di inversione di ruoli, c'è un pezzo di un romanzo che parla dell'inversione di ruoli, in realtà è inversione di generi, però è di ruoli forse per antonomasia. Si chiama Orlando, questo romanzo scritto nel 1928 da una signora che si chiamava Virginia Woolf e che racconta la storia di questo giovane nobile inglese, che è una storia abbastanza surreale, che vive un periodo molto lungo della sua vita e durante la sua vita ha questi due momenti in cui si addormenta, dorme per una settimana e poi si risveglia. Al primo non succede nulla, al secondo invece si sveglia, era un maschio, è diventato una femmina. Questo pezzo che sto per leggervi racconta esattamente quel momento, quello del secondo risveglio, in cui era un uomo, si sveglia e non lo è più. Ed eccoci completamente dentro alla stanza, soli, con Orlando dormiente e gli araldi. Questi, dopo essersi schierati in riga, suonarono un terribile grido. La verità! A quel grido Orlando si svegliò. Si stirò, si alzò. Ci stava davanti, in piedi, completamente nudo. E al clamore delle trombe, verità, verità, verità, non ci resta che confessarlo. Orlando era una donna. L'eco delle trombe svanì e Orlando restò immobile, in totale nudità. Mai, da che mondo è mondo, creatura umana era apparsa più incantevole. La sua forma fondeva la forza virile alla grazia femminile. Intanto le trombe d'argento prolungarono la loro nota, quasi riluttanti ad abbandonare la leggiadra vista che il loro clangore aveva evocato. E castità, purità e modestia, ispirate senza dubbio da curiosità, sogguardarono dalla porta e gettarono su quella forma nuda un indumento, una specie di drappo, che purtroppo mancò la mira di parecchi pollici. Orlando si guardò da capo a piedi, in un alto specchio, senza dar segno di turbamento, e poi si ritirò, verosimilmente in bagno. Ecco, cogliamo l'occasione di questa pausa nel racconto per fare alcune considerazioni. Orlando era diventato una donna, è innegabile. Ma sotto ogni altro riguardo, Orlando era identico a prima. Il mutamento di sesso poteva cambiare il futuro dei due Orlando, ma non mutò affatto la loro identità. I loro visi rimasero, come provano i ritratti, praticamente uguali. Lui poteva, ma d'ora in poi sarà bene per convenzione dire lei anziché lui, lei poteva dunque risalire nella memoria il corso degli eventi del suo passato senza incontrare ostacoli. Poteva esserci forse una bruma leggera, come se poche gocce scure fossero cadute nello stagno limpido della memoria. Certe cose si erano appena intorbidate, ecco tutto. La metamorfosi sembrava essersi compiuta in modo indolore e completo, in maniera tale che Orlando stessa non ne fu sorpresa. Molti, considerando questo fatto e sostenendo che un mutamento di sesso è contro natura, ce l'hanno messa tutta per provare che 1. Orlando era sempre stata una donna, 2. Che Orlando era tuttora un uomo. Lasciamo il dilemma ai biologi e agli psicologi. A noi basterà constatare il fatto in sé. Orlando era stato un uomo fino ai 30 anni. Dopo di allora diventò una donna e tale è rimasta. Dei modi per sapere che brani stiamo mandando in onda, oltre che andare sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, è quello di seguire il profilo Twitter Voi Siete Qui R24, che Margherita Ina, che ormai è diventata, credo, l'esperta di Twitter di tutta la redazione, twitta, scrive in tempo live, in tempo reale. State ascoltando Codein, tap tap, 24 secondi fa l'ha postato Margherita. Ripeto, Voi Siete Qui R24. È arrivato un messaggio che, diciamo, è brevissimo per quanto riguarda l'inversione dei ruoli, però è per certi versi illuminante, anche se presuppone una parte di sottotesto. Il messaggio è questo: ho arrestato uno sbirro. Questo significa che tu fossi un delinquente prima, che è stato arrestato da un poliziotto, e che adesso tu sia diventato un poliziotto che ha arrestato un poliziotto che è diventato un delinquente. Una cosa che ho capito di tutta questa puntata è che riuscire a spiegare l'inversione dei ruoli a parole è un delirio. Prima eri maestro, poi sei diventato allievo, poi il tuo allievo è diventato maestro, poi sei diventato tuo allievo suo maestro. E grazie a cielo la finiamo qua, ringraziando Tiziano Bonini, ringraziando Filippo Aureggi, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. Ringrazio soprattutto Renato, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Claudia, vivo a Genova e la storia di domani è la mia, racconta la notte in cui è nata mia figlia Agata. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.